Perché so vivere una sera per volta. Io ti vengo a prendere perché dove andiamo non importa. Ti voglio credere per come cammini, per le promesse che comunque mantieni. Io ti voglio credere per quello che chiedi e che non chiedi. È una città piuttosto dura, dipende quanto puoi pagare. E tu che sai quali porti aprire, sembri sapere come va a finire. Segui per dire, il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. Ti voglio credere perché tu ci credi, perché sei dolce tanto quanto sei dura. Io ti voglio credere perché sei sicura di qualcosa. Ti vengo a prendere, mi aspetto di tutto, e non deve essere per forza perfetto. Io ti vengo a prendere perché ciò che è fatto adesso è fatto. E la città ci fa passare altri problemi a cui pensare. E tu che sai bene dove andare, devi sapere come va a finire. Sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. Qualcosa fra te e la vita, chissà quanto vi conoscete, mentre ridi, mentre ridi. Poi la città risplende ancora, anche con poche luci fuori. E tu che non cambi